Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti, qui è Gas che vi parla e siete su Ciao Radio Como. Spero che la settimana sia iniziata bene, il lunedì non è mai facile e quando si arriva a quest'ora si è sempre veramente veramente veramente stanchi, si è immobili, si è bloccati, eppure il lunedì è sempre una nuova speranza, un giorno che riporta spirito, volendo, che potrebbe ricostruire una settimana in maniera diversa, la pagina nuova di una nuova di un nuovo libro, di una nuova vita, di quello che volete, oppure è il solito lunedì del cazzo, dipende. A me piace iniziare il lunedì con grinta, io alle 7 del mattino scatto e dico wow, iniziamo la nuova settimana. Non so se vi capita anche a voi, chi lo sa. Quindi questa settimana volevo farvi partire con un po' di energia e volevo farvi ascoltare una canzone che mi ha consigliato il Marco Catania, il nostro amico Braz, che purtroppo questa settimana non sarà con noi in radio, ma che sarà con voi nelle vostre orecchie grazie alla mia voce, che leggerà la sua poesia anche questa settimana. Prima di leggervi Invasato Vessato di Marco Catania, infatti, avrei voglia di farvi leggere la canzone da lui scelta, che è un brano dei Metallica e si chiama The Call of Cthulhu. A tra poco. Thank you. Ed eccoci rientrati dopo The Call of Cthulhu, il brano musicale dei Metallica, del loro secondo album, un brano tutto interamente strumentale e ispirato ai racconti di Howard Phillips Lovecraft. Ora passiamo invece alla parte di poesia e di lettura con L'invaso vessato di Marco Catania. Grande devasto dell'invasato, anima immobile che sopraffina ti sdegni, sia Venere cupida e Marte marziale, che mistici stitici vanno sorretti per le vie, scorti con occhi mutevoli, fugando il frugabile, le patacche agghindate, le ferite abbrustolite sulle carni livide. Vedrò il tuo sguardo, vigile e rinvigorito, mentre per poco nel frattempo mi affogo al filo del derma, nel liquido indistinguibile, dissenziente, insensibile, da fragile impaccio infradiciato. Le sorti mutevoli muteranno la sorte, una sorta di insurrezione sorretta da finalità nei principi, che vanno dal darsi che è vano, al vano che dava da venire. Ogni sgherro è sovrano, dalla strafottenza non ne viene niente. Avrò da avere dandomi agli averi, e chi ne conviene, ne convenga convenienza convenuta. Il cuore accorato, lo spirito spiritato, nelle fratte affastellato, le parti mosse per muovermi parziale. Non è il tentare che mi tenta, è che nulla supporto se porgo il mio apporto ad un portamento importante, meglio mentire meritevolmente. Il menzognero merita menzione immantinente. Il mio cuore arde incombusto, il semieterno è sempre intento, l'usura ne diverge e l'attrito vi divarica. Andrò, andante dell'andare che va, andando e sopportando l'insopprimibile soppressione. Dietro di noi e dentro di noi, arretrando mi addentro, addentrandomi arretro. Liberati della morte, che libera è la vita. Birra ambrata, brama, macabro, il marco, marcomanno, maggiore magno e maggiore magno e magno mignon. Chi si sacrifica nella morte muore nel sacrificio. Ciò è sacrificabile. Pietra ammassata, masso impietrito. E così si conclude il primo giorno della settimana e questa poesia di Marco Catania, come al solito, molto allitterata, molto legata a questa sonorità forte e continua e allo stesso tempo brusca. Volevo salutare Marco, volevo salutare Mendo e tutti gli ascoltatori di Le Buonanotti di Allineamenti. Vi ringrazio e a domani, dove riprenderemo con una poesia di Giuseppe Lorenzetti sul senso un po' anche di allineamenti stesso, ovvero delle parole che ci diciamo, che ci raccontiamo, che utilizziamo per relazionarci con questa vita e con questo mondo e con gli altri. Buonanotte a tutti e a presto. Saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.